Italia in controluce. Buongiorno, oggi è il 23 dicembre e vi parla Daniele Biacchesi. Oggi è venerdì, è il giorno di Piera Ceci in scuola in controluce. Scuola in controluce. Hanno 17 anni, frequentano il penultimo anno del liceo, vivono a Varallo-Sesia, nel Vercellese, a Milano e a Napoli. Ma oltre all'età e alla scuola, li accomuna la voglia e anche il coraggio, vista l'età, di aver voluto affrontare un'esperienza all'estero. Sono stati infatti tutti e tre in giro per il mondo a studiare per 3 mesi e mezzo in una scuola dove hanno dovuto confrontarsi con compagni diversi, insegnanti diversi, lingua diversa, didattiche diverse. Lo hanno fatto grazie ad Intercultura, associazione che promuove la mobilità dei nostri studenti e che, ciliegina sulla torta, poi ha organizzato per questi ragazzi un campo di qualche giorno a Bruxelles a contatto con le istituzioni comunitarie. E allora, reduci da questa bella esperienza, ci siamo fatti raccontare com'è andata, cosa hanno imparato, quali differenze hanno scoperto con l'Italia. Cominciamo da Mattia Pedretti di Varallo-Sesia. Io sono stato a Mons, che è nel sud, a 15 km dalla frontiera francese e a un'oretta da Bruxelles. No, devo dire che sono veramente soddisfatto, la mia esperienza è stata divertente, interessante, tutto il meglio che ci si possa aspettare da qualcosa del genere. Ho frequentato la scuola, una scuola piccolina, 400 persone. Beh, non aveva un indirizzo specifico come in Italia, perché in Belgio ogni scuola offre tutti gli indirizzi. Quindi c'era di tutto, c'era dentro il linguistico, l'artistico, lo scientifico. Io facevo lo scientifico per tenere lo stesso indirizzo che ho in Italia. Ho due opinioni mi sono fatta. Una, dal punto di vista della metodologia, penso che in Belgio siano avanti rispetto a noi, perché ad esempio su 2 ore di lezione, almeno alla mia scuola in Italia, sarebbero 2 ore di spiegazioni comunque interessanti, ma frontali, nel senso professore che spiega, alunni che prendono appunti. Invece in Belgio già la spiegazione è fatta in modo un po' più interattivo, e poi su 2 ore di lezione di solito si fa 1 ora di spiegazione e un'altra ora si usa per fare un'attività o da soli o in gruppi di 2 o 3 per fissare un po' quello che si è appena visto teoricamente, fissarlo per iscritto. Mattia, com'è una spiegazione interattiva? Non riesco a immaginarla. Una spiegazione interattiva nel senso che si parte da dei concetti generali e poi con l'aiuto delle conoscenze di tutti i ragazzi della classe si cerca di costruire dei concetti, mentre almeno da me qua in Italia i concetti vengono un po'... ci vengono forniti già costruiti e quindi sono costruiti magari in modo più corretto, più specifico, ma senza il nostro impegno personale, quindi rimangono un po' meno in testa. Però ci tengo a dire una cosa, che comunque, come dicevo, ho 2 opinioni, perché dal punto di vista della metodologia in Belgio secondo me sono avanti, ma dal punto di vista di contenuto, nonostante quello che si dica, penso che veramente in Italia siamo avanti anni luce. Le nostre lezioni hanno dei contenuti molto più completi. Tornare sui banchi di scuola italiani ti ha portato qualche difficoltà in più? Sei rimasto un po' indietro? Come ti hanno guardato i professori quando sei tornato? Beh, sono stati abbastanza comprensivi, ne avevamo già discusso prima che partissi comunque, e sì, ovviamente adesso dovrò impegnarmi soprattutto a gennaio per recuperare tutto quello che ho perso, anche perché i programmi non coincidono. Alice Ferro, milanese, invece è stata in una scuola nella campagna sperduta della fredda Danimarca. Si chiama ginnasio ed dura 3 anni ed è come il nostro liceo, ovvero facevo una specie di liceo classico, però senza il greco, solo latino. Ma hai scelto tu la Danimarca o ti è stata attribuita per qualche ragione? In realtà non lo so bene tuttora, però non ho mai saputo molto e quindi ho detto ma sì, proviamo, anche perché comunque l'ho sempre pensato un paese molto pacifico e infatti lo è anche, e poi soprattutto per la bicicletta. A scuola andavo in bicicletta e in autobus, quindi comunque si può girare la Danimarca in bicicletta completamente ovunque, cioè si può fare il giro della Danimarca in bicicletta, cosa impensabile ad esempio in Italia. Sì, uguale, no? Sto pensando a Milano, la città in cui vivo anch'io, esattamente quindi, la stessa cosa. Sì, è anche abbastanza traumatizzante tornare a Milano e non poter usare la bicicletta. E invece per quanto riguarda la scuola, che differenza hai notato fra le scuole italiane o quella che comunque tu frequenti e la scuola che hai frequentato in Danimarca? Beh, la prima differenza che si può vedere proprio con gli occhi è la struttura veramente molto moderna in Danimarca e qua molto vecchia. Ad esempio in Danimarca c'erano computer fissi più o meno dappertutto che gli studenti potevano utilizzare, poi soprattutto il rapporto con i professori. Io davo del tu al mio professore di latino, che ha la mia stessa età, ha la stessa età di un mio professore normale italiano. Quindi comunque anche l'attenzione che i professori danno ai propri studenti, che non è la sola voglia di ricevere un voto, ma anche essere sicuro che lo studente abbia capito di cosa tu stia parlando. È stata dura rientrare da questo punto di vista e ritrovarsi i professori ai quali eri abituata prima, no? E quindi tornare a questo stile di rapporto? Ma sì, ma non solo per questo, anche perché comunque in Danimarca il sistema scolastico è totalmente diverso, di conseguenza non ci sono voti in Danimarca, cosa che invece interessa alla scuola italiana adesso, quindi devo recuperare tutto e questo è abbastanza difficile. Cosa c'è al posto dei voti in Danimarca? Come vengono giudicati gli studenti? Ma gli studenti all'inizio del primo anno del ginnasio scelgono il livello del corso, se è un livello A, B o C, e alla fine dei tre anni, ad esempio, possiedi il certificato di inglese a livello A, ed è questo alla fine che l'università ti chiede. Comunque ho constatato che il programma italiano ti propone molta più cultura rispetto a quello danese, che ti propone invece più praticità. Ad esempio, io so che nelle scuole italiane i laboratori scientifici non si usano quasi mai, invece in Danimarca si faceva lezione nel laboratorio. Eh sì, una bella differenza con quello che accade in Italia. Sentiamo invece com'è andata Luca Ciaramella, napoletano, che è stato in Serbia, a Belgrado. La scuola si chiama Dvanest Beogradska Gimnasia ed è praticamente l'equivalente di un liceo qui a Napoli, o qui in Italia in generale. Come ti sei trovato? Quali sono state le differenze, insomma, che hai potuto notare macroscopiche? Allora, la differenza principale era che le ore scolastiche erano suddivise in 45 minuti ciascuna e che il tempo che passavamo a scuola andava dalle 5 alle 7 ore. Le materie erano piuttosto uguali, sebbene i programmi fossero ovviamente un po' diversi dai nostri, e una grande differenza che ho notato è che lì i turni si sviluppavano, cioè l'andare a scuola si sviluppava su turni diversi, una settimana di mattina e una settimana di pomeriggio. Questo perché mancano le scuole o per qualche altra ragione? A dire il vero non lo so, credo che le strutture che ci siano non siano adatte ad ospitare così tanti studenti contemporaneamente, per questo. Quindi una stessa scuola viene utilizzata, diciamo, su due turni, ecco, per poter fare studiare tutti. Ecco, come sono gli insegnanti, il metodo didattico, insomma, al di là dell'orario, ecco, quali sono le differenze che hai notato? Allora, principalmente l'applicazione dello studio è molto più pratica di quello che abbiamo in Italia. E, generalmente, se non nelle scuole di settore, viene prediletta di più lo studio di tipo scientifico che quello di tipo classico. Quindi mi racconti una tua giornata tipo, una tua mattinata tipo? Allora sì, principalmente diciamo le ore di letteratura serba, di letteratura serba sono in netta minoranza, diciamo, alla somma delle ore di materie scientifiche, quali possono essere la chimica, la fisica, la matematica, e in tutti quanti i programmi di queste materie sono un bel po' avanti rispetto al programma che noi svolgiamo in Italia, io in primis che faccio parte comunque di una scuola scientifica, quindi penso abbiano molte più continuità da quelle che sono le scuole medie per quanto riguarda queste materie, mentre invece noi nei nostri licei riprendiamo il programma sempre da capo appena interrompiamo un ciclo scolastico, ecco. E gli insegnanti come sono? A mio parere gli insegnanti sono più o meno uguali in tutto il mondo, però quello che ho notato è che sono sempre stati molto gentili con me, hanno, come dire, mi hanno sempre chiesto quanto, come capissi, quindi cioè, c'è stato un bel contatto umano comunque, ecco. Ecco, tu come gli altri ragazzi hai fatto anche questa esperienza di qualche giorno a Bruxelles a contatto con le istituzioni europee. Sì. Ti è servito per capire un po' meglio come funziona il tutto e anche per avvicinarti forse a una realtà che non sempre sentiamo così vicina in Italia? Sì, assolutamente sì, diciamo il campo che abbiamo svolto a Bruxelles di 4-5 giorni mi è servito più che altro a focalizzare meglio quello che vuol dire l'Europa e i suoi meccanismi. E che vuol dire per te essere europeo adesso, dopo questa esperienza? Dopo l'esperienza, una cosa che posso dirti è che mi sento molto meno europeo di prima. perché comunque ho vissuto in un paese in cui, che non entrava nell'Unione Europea, in cui spesso gli stessi identici valori che vengono predicati dall'Unione Europea sono presenti. Quindi secondo me non è una questione di sentirsi o meno europei, ma di credere o meno in determinati valori. Era la seconda edizione di Italia in Controluce, che va in ferie e riprende le sue trasmissioni il 9 gennaio. Dunque buone ferie a tutti, buon Natale, buon Capodanno, buona Epifania, e il 9 gennaio torneremo con nuovi reportage, nuove inchieste sulla società italiana.